Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Si può parlare di gnocchi in una trasmissione di scienza? Möbius fra poco vi dimostrerà che è possibile. Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi gli gnocchi. Francesca, una nostra ascoltatrice, ci ha chiesto: perché gnocchi e canederli, quando sono cotti, vengono a galla? Sono poco meno di 80.000 i cognomi italiani. Uno studio di genetica antropologica ricostruisce le mappe di migrazione nella nostra penisola proprio grazie alle origini geografiche dei nostri cognomi. Anche questa settimana parliamo di invenzioni italiane, una piccola ma utilissima innovazione, una fascetta per cucire in pochi secondi un bottone. Dal CNR arriva invece una grande scoperta: usare il grafene nei sistemi di sicurezza. Progettati i primi sensori per body scanner senza rischi per la salute. Möbius entra in una clinica veterinaria e vi racconta la prima di una serie di storie insolite che riguardano piccoli pazienti a quattro zampe. Beh, è arrivata la domanda riguardo agli gnocchi. Che è il mio piatto preferito, lo posso dire? Sì. Però quelli della mia nonna. Non solo gnocchi, comunque. Sì, ah, no, certo, anche i? I canederli. I canederli. E non anticipate troppo della domanda di Francesca. Va bene. Sentiamola. Ascoltiamola. Mi sono sempre chiesta: perché gnocchi e canederli, quando sono cotti, vengono a galla? Grazie mille. Secca, precisa. Precisa, e devo dire che ce lo siamo domandati un po' tutti. Succede anche forse per i ravioli, ma adesso lo chiederemo al nostro espertone. Lo chiederemo al nostro espertone, che è Dario Bressanini. Buonasera Dario Bressanini. Ciao, ciao a tutti. Eccoti lì. Chimico dell'Università dell'Insubria e anche un ottimo divulgatore. Possiamo sì, dire. Anche un collega, scrive per un scienze. Tema che a me è molto caro, scienze e cucina per le scienze. E qui grazie. Ci siamo, gnocchi. Ma c'è anche una velocità diversa con cui vengono fuori? Adesso forse stiamo andando per il sottile. Andiamo prima al sodo, allora sì. Prima di tutto spieghiamo perché vengono a galla. Allora, diciamo che ci sono vari tipi di preparazioni, diciamo, che simili agli gnocchi, comunque, come ricordava l'ascoltatrice, ci sono i canederli e così via. In generale sono fatti di farina, un po' di farina, dell'acqua, un legante che spesso è l'uovo, ma non sempre c'è, e amido, che può essere magari che arriva dalle patate o solo dalla farina e così via. Quello che succede è che quando noi buttiamo gli gnocchi in acqua, a un certo punto l'amido comincia ad assorbire dell'acqua, quindi diminuisce la propria densità, perché appunto si gonfia, questo è l'effetto che noi vediamo, e l'amido gelatinizza. Quello succede perché vengono a galla? Beh, perché quando l'acqua comincia a bollire, forma le bollicine di vapore, la superficie è un po' ruvida, gli gnocchi dovrebbero essere un po' ruvidi, riesce a intrappolare e bloccare alcune di queste bollicine di vapore che stanno salendo verso l'alto. Quindi a mano che si attaccano queste bollicine, pian piano lo gnocco o astuto lo gnocco, diciamo, di preparazioni viene spinto verso l'alto e quindi vediamo che arriva a galla. Un po' un effetto spugna? Ma non proprio, perché le bollicine rimangono l'aria. Solo sulla superficie, ecco. Quindi si fa dare un passaggio dalle bollicine per andare su. Sì, se lo spingono verso l'alto, come se fosse un idromassaggio. ma allora sì. Anche altre cose potrebbero... è proprio l'amido che ha questa potenzialità? No, l'amido diciamo, si gonfia per l'acqua, però anche altre cose possono andare verso l'alto. Ci sono ad esempio delle verdure che hanno una conformazione molto molto ruvida, non so, penso ai broccoli per esempio o altre cose, se si tagliano in pezzi molto fini, quando cominciano a assorbire dell'acqua in superficie vengono a galla. A me vengono in mente le foglie degli spinaci, che in effetti quando le bolliamo affiorano. Vengono su, e anche i ravioli, quindi è una questione anche, non so, proprio anche della ravioli, porosità certamente. Della pasta. Ma quindi non è necessario che siano cotti? Ecco, infatti questa, diciamo, si dice che quando vengono a galla sono cotti. In realtà non necessariamente così, perché se sono molto piccoli, sicuramente una volta a galla, diciamo, la temperatura interna ha raggiunto, diciamo, la temperatura ottimale. Se però sono molto grandi, può essere che arrivano a galla spinti dalle bolle di vapore, ma la temperatura interna non è ancora quella ottimale. Quindi, diciamo, io consiglio sempre di assaggiare comunque. E quindi per gli gnocchi, diciamo che potrebbe valere questa regola che noi di solito utilizziamo come convenzione, per i canederli, che magari sono un po' più grassottelli. Io quando faccio i canederli personalmente tendo ad assaggiarli, perché non, insomma, voglio che internamente siano sia cotti sia con una certa quantità di acqua che è riuscita a penetrare. E allora Dario, approfittiamo della tua esperienza per rispondere anche ad un'altra domanda. Sì, c'è un'altra domanda che riguarda la cucina, riguarda le fave. Roberto che ci chiede: come mai quando facciamo cuocere le fave diventano marroni e invece i piselli restano verdi? Sì, in realtà non anche i piselli a lungo andare diventano marroncini. Diciamo, il verde dei vegetali è molto delicato, quindi broccoli, fagiolini, le fave appunto. Il verde dipende da un colorante naturale che è la clorofilla. Ecco, la clorofilla è questo bel verde brillante. Purtroppo la clorofilla è un pigmento molto delicato e scaldandolo perde un pezzo, diciamo così, perde un atomo di magnesio che è diciamo, conficcato dentro questa molecola molto complicata. Scaldandosi quindi il magnesio se ne va e la clorofilla si trasforma in un'altra molecola che si chiama feofitina, che ha un colore verde marcio o marroncino, un po' poco appetibile. La velocità con cui si perde l'atomo di magnesio dipende un po' dai vari vegetali e può essere molto ma molto influenzato dal pH, cioè dall'acidità o meno dell'ambiente della soluzione. Ecco, se uno vuol fare un esperimento cuocendo magari dei fagiolini, se prova ad aggiungere un cucchiaio d'aceto nell'acqua di cottura, cosa che normalmente non si fa, ecco, l'acidità dell'aceto fa scappare via il magnesio molto velocemente, per cui nel giro di, insomma, pochissimo tempo i fagiolini, ma anche i piselli, diventano bruni, scuri e marroni. Dario, ma tu passi più tempo in laboratorio o in cucina? No, i miei esperimenti culinari li faccio esclusivamente a casa. Io, diciamo, il mio settore di ricerca è tutta un'altra cosa. Io mi occupo di meccanica quantistica a livello professionale. Io farei tutta la puntata con Dario, ma non si può. No. No, volendo, potremmo decidere di farlo un giorno. Preparati. Potremmo vederci a cena almeno. Il tuo grazie mille, Dario. Ciao, grazie a voi. E ora il traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. No, mi viene da ridere perché una che si chiama Albicocco che si interessa cosa di cognome. Perché c'è un problema. No, allora, col tuo cognome. No, io non ho un problema con i cognomi, anzi sono molto affascinata dalle ricerche sui cognomi. Infatti quando ho letto l'articolo adesso lui ce lo dice, il signor Boattini, e vedremo anche magari da dove deriva questo cognome. Posso chiedergli questa cosa? Del mio cognome, va bene. Ok, allora, tutto questo per dire che c'è stata una ricerca sui cognomi italiani, che sono all'incirca 80.000, adesso ci racconterà il nostro esperto. 80.000. E grazie proprio al tracciamento, come dire, dei cognomi, sono riusciti i ricercatori a creare delle mappe sugli spostamenti all'interno della nostra penisola nel passare degli anni della storia. Addirittura dei secoli. Dei secoli. Allora, adesso ci facciamo raccontare tutto con precisione da Alessio Boattini, che è appunto genetista e antropologo dell'Università di Bologna. Intanto buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Boattini. Parta lei dicendo che tipo di studio avete fatto, che cosa avete preso come base per appunto cominciare a ricostruire questi circa 80.000 cognomi che affollano la nostra penisola. Beh, la fonte è stata semplicemente una lista di elenchi telefonici, quindi insomma da quel punto di vista il lavoro è stato abbastanza semplice, perché il materiale era già a disposizione e fortunatamente era già stato, diciamo così, predigerito dal gruppo di Gianna Zei di Pavia, che aveva già organizzato il tutto. Cioè aveva tolto le cose un po' inutili, le società, i bar, i ristoranti, le pagine bianche, diciamo così, tanto per fare... Magari diciamo un piccolo dettaglio in più, 93, perché nel 93 ancora i telefonini erano pochi e di conseguenza insomma, certo. Avevano tutti la rete fissa, giusto. Quindi siamo partiti da questa fonte per cercare di ricostruire quella che è la storia che stava dietro alla distribuzione dei cognomi, diciamo così. perché la distribuzione dei cognomi ci racconta di fatto una storia, non si distribuiscono nel territorio a caso, ma si distribuiscono secondo certe, diciamo così, certi andamenti particolari. Tutto il gioco fondamentalmente è cercare di leggere e di capire il significato di questi andamenti. Step numero uno, innanzitutto cercare di capire quali sono quei cognomi che si portano dietro un'informazione di tipo geografico e quali non lo fanno. Tanto per capirci, un cognome estremamente diffuso come Rossi, che è più o meno presente in gran parte d'Italia, è poco informativo. Mentre un cognome magari come il mio, tanto per fare un esempio, o Boattini, Albicocco, Pedrocchi, dai, sono abbastanza invece... Che sono invece molto informativi perché hanno una distribuzione con dei picchi particolari in certe zone geografiche, insomma. Quindi la prima parte è cercare di capire chi sta da una parte, cioè chi sta dalla parte dei non informativi e chi sta dalla parte dei cognomi informativi. Cioè quelli che non ci danno tante informazioni, i rossi, i verdi, quelli molto diffusi non ci danno nessuna informazione di carattere quelli geografico. Quelli che noi chiamiamo, scusate, il tecnicismo polifiletici perché presumibilmente hanno più di un fondatore. Ok. Quindi tutti i rossi si presume che non discendano dallo stesso antenato. Da uno stesso rossi, certo. Che indipendentemente, insomma, certo. Hanno avuto questo cognome per qualche motivo. Mentre invece io conosco un paesino piccolo in Brianza dove si chiamano tutti Cocchi. Questo è un interessante, è un probabile effetto del fondatore. Quindi lei dice questo è l'estremo opposto, no? Questo è l'estremo. Un cognome ultra concentrato in pochi chilometri. Esattamente. E allora, dopo questa prima procedura, diciamo così, di scrematura, abbiamo scoperto che dei circa 80.000 cognomi da cui eravamo partiti, 20.000 sono più o meno quelli non informativi e 60.000 sono quelli invece informativi. Quelli interessanti. Quindi la maggioranza. Quindi sono la stragrande maggioranza. Però cosa succede? Succede che quelli poco informativi in realtà sono portati da molte più persone in media rispetto a quelli informativi. Di conseguenza, alla fine ci ritroviamo con circa la metà della popolazione che porta cognomi realmente informativi, certo. Meno della metà. Con cognomi un po' più ricercati, insomma, meno diffusi. Meno diffusi, o comunque con una distribuzione geografica leggibile, ecco, mettiamola in questi termini. E quindi dopo questo lavoro di individuazione di questi cognomi buoni, che cosa avete fatto? Allora, l'ipotesi di partenza è che questa distribuzione geografica dei cognomi utili sia in qualche modo leggibile, cioè racconti una storia. Una storia che si è sviluppata naturalmente nel tempo, nel corso dei secoli. Quello che osserviamo oggi, in parole povere, è il risultato finale di un percorso. Noi non abbiamo fatto altro che mettere a punto un metodo che in qualche modo, ora senza scendere nei dettagli, fosse in grado di risalire il percorso indietro, quindi in un certo qual senso andare indietro nel tempo e cercare di capire qual è il luogo di origine di ogni singolo cognome. Perché, mi scusi, siete anche partiti dall'idea che i nomi che avete preso nel 93 non sono di gente che appunto ha iniziato con quel cognome nel 93, saranno vecchi, no? O comunque che gli antenati fossero lì, insomma, da sempre. Certo, no? Esattamente, sappiamo benissimo, certo, che i cognomi si trasmettono per via paterna di padre in figlio, certo, e quindi insomma illuminano, diciamo così, un certo percorso storico che sta alle nostre spalle. Certo, quindi quella distribuzione con quegli epicentri in qualche modo è storica. Quella distribuzione è sicuramente storica, è il frutto di un processo che si è insomma svolto in un certo numero di secoli, presumibilmente 4-5 secoli. Ecco, lei dice 4-5 secoli perché? C'è una motivazione precisa? C'è una motivazione precisa, sì, perché il punto d'origine dei cognomi italiani, e probabilmente non solo, è durante il Cinquecento. E precisamente come conseguenza, una delle tante conseguenze del Concilio di Trento. Durante il Concilio di Trento venne presa la decisione, venne imposto ai parroci delle singole parrocchie di tenere questi registri, i registri parrocchiali. Quindi di registrare i battesimi in un certo senso, le nascite. I matrimoni, eccetera, eccetera. E di conseguenza di identificare con una certa chiarezza tutti gli individui, insomma, che appartenevano ad ogni parrocchia. Ecco che nasce quindi l'esigenza di identificare, no? E di conseguenza il cognome come motivo di identificazione dei singoli individui, non solo il nome, non solo il luogo di nascita, ma anche il cognome. Di conseguenza, da questo momento in poi, diciamo che i cognomi si diffondono largamente in tutta la popolazione, magari mentre prima era un appannaggio soltanto di poche famiglie molto affluenti, da questo momento in poi diventano diffusissimi, ecco. Sì. Per questo diciamo che la fine del Cinquecento è il punto di partenza. Ma questo vi ha portato anche a individuare, per esempio, appunto dei nomi particolarmente, dei cognomi particolarmente rari e quindi degli epicentri. E radicati particolarmente in una zona, come dicevi tu. Sì, esistono. Ma guardi, ci sono cognomi che in realtà appaiono, tipo sono portati da 10-15 persone, non di più. In realtà non sono i più interessanti, paradossalmente, proprio perché essendo così rari è difficile riuscire a capire la storia che raccontano. Quando i dati sono estremamente scarsi, la statistica, ahimè, fallisce. Non vi aiuta. Quindi i cognomi più utili in realtà sono quelli che hanno delle frequenze, diciamo così, intermedie. Tipo Pedrocchi. Il mio. Il suo, Boattini. Il mio, vabbè, questo è un altro discorso. Bicocca è rarissimo. Anche il suo, in realtà ci ho dato un'occhiata. Le posso dire che il suo cognome ha una distribuzione che è compatibile con un'origine siciliana, e precisamente della provincia di Caltanissetta. Io non ho parenti a Caltanissetta, però insomma, se qualcuno in ascolto mi vuole contattare e adottare. Vabbè, torniamo a noi. Mi chiedo come mai un genetista, un antropologo, studia i cognomi per ricostruire, come dire, la genetica di popolazione. Questo è bizzarro, perché la ricerca è senza dubbio interessante, però il significato scientifico di tutto questo. Sì, in realtà mi rendo conto che la cosa può sembrare un po' così, un po' strana, un po' esotica, ma c'è un motivo ben preciso, e in parte l'avevamo già accennato prima, il fatto che i cognomi si trasmettono in una maniera che simula molto bene alcuni marcatori molecolari. Cioè, io porto il cognome di mio padre, che a sua volta portava il cognome di suo padre, mio nonno, bisnonno, eccetera, eccetera. Sono ereditari? Sono ereditari. Si trasmette ereditariamente. Ereditari, come i geni. Si trasmettono esattamente come alcuni particolari segmenti del nostro DNA. E ecco quindi che tutto ciò giustifica, insomma, il nostro interesse per questo tipo di dati. Sono dati puramente, i cognomi sono marcatori puramente culturali, ma di fatto si comportano come se fossero dei marcatori genetici. E in conclusione, un tipo di analisi come questo ci restituisce qualche informazione per cui avete notato che le migrazioni, ad esempio, dopo la guerra, sud-nord, sono più frequenti? L'avete notato? Senz'altro. Allora, innanzitutto le posso dire che uno dei dati più eclatanti che emergono è che la metà abbondante degli italiani, quindi un po' più del 50%, non vivono nello stesso posto in cui il loro cognome si è originato. Quindi grande spostamento. Ci rendiamo conto dell'enorme entità degli spostamenti che sono avvenuti in un intervallo di tempo tutto sommato relativamente piccolo, 400 anni. Altra cosa che potrei aggiungere è il fatto che esistono, questo è un dato, insomma, una media che vale per tutta l'Italia. Esistono però situazioni sicuramente molto diversificate a seconda delle regioni, per cui ci sono aree geografiche estremamente o molto conservative, quindi dove la gente se n'è andata poco, il cui apice, tanto per fare un esempio, è nella provincia di Bolzano. Esistono località come le grandi metropoli dove succede praticamente l'esatto contrario, quindi arriva tantissima gente dall'esterno, arrivano moltissime migrazioni dall'esterno, migrazioni che insomma ricoprono in un certo senso il nucleo fondatore dei cognomi, ed esistono, forse la cosa più interessante e più inaspettata, aree che si comportano come corridoi, e tutta la fascia tirrenica che va fra praticamente Roma e la Liguria fino a sconfinare verso la Francia si configura in questo modo, quindi zone dove la gente si è mossa in particolar modo sia in arrivo che in partenza. Come porto, per partire e per tornare. Esattamente, infatti una cosa curiosa è che la Toscana, per esempio, che è un'area che dal punto di vista culturale è molto ben identificata, dal punto di vista, diciamo così, dei cognomi, in realtà mostra essere un'area estremamente mobile. Quindi c'è un po', insomma, un contrasto fra quella che è l'identità culturale e quella che invece appare essere la sua dinamica storica di movimento della popolazione. Va bene, molto interessante, la ringrazio, buon lavoro davvero, e ci faccia sapere se c'è qualche evoluzione. Magari rendetelo consultabile il vostro studio, sarebbe interessante. Magari. Va bene, una breve pausa adesso, Chiara, ci sarà qualcuno che si chiama pausa? E riprendiamo parlando di innovazione, e che fa rima con Cuci Bottone. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Anche questa settimana vi parliamo di innovazioni, solo che ne abbiamo messe insieme due completamente diverse una dall'altra. Incominciamo assolutamente dalla più semplice ma altrettanto cruciale, che è il cucibottone. Per parlarmi del cucibottone io ho qui Fulvio Buonavoglia. Buonasera, Buonavoglia. Buonasera. Buonasera. Che ne è l'inventore. Allora, senta, io vedo insieme a lei un disegno e quindi dico subito ai nostri ascoltatori che andranno al nostro sito e vedranno bene come funziona, perché non è banale da spiegare. Intanto diciamo una cosa, qui un bottone con il suo cucibottone si cuce in... una ventina di secondi. Ah, proprio, se uno prende la mano anche in 10, io direi. Sì. C'è un ago che è già agganciato a un controbottone, quindi qualcosa che starà sotto il esatto. bottone. Mm. Dunque, che cosa si fa? Si infila l'ago con il suo controbottone, dove appunto bisogna attaccare il bottone, e si esce dall'altra parte. E qui cosa c'è? Il bottone. Qui mettiamo il bottone che vogliamo installare, che vogliamo cucire. Ok, poi rimettiamo l'ago. Torniamo indietro, lo infiliamo nell'altro buco sempre del bottone, ripassiamo nel tessuto e andiamo a bloccare l'ago nel controbottone del cucibottone, nella parte piattino. E lì si viene fuori come una specie di sigillo che tiene in mezzo il tessuto. Esatto. E a questo punto il gioco è fatto. Sì, il filo è un po' più largo, ha un diametro un po' più robusto, magari. Esatto, rispetto al filo normale, però c'è da dire che passa una volta sola e poi soprattutto non fa forza direttamente sul tessuto, ma sul controbottone. Sul controbottone, quindi anche più robusto. Il che vuol dire che insomma uno in un minuto, se ha un disastro che ne ha persi 5 di bottoni, se li... Senta, ma voi state facendo allora una società che lavorerà sul cucibottone. Sì, esatto, facciamo una piccola startup che partirà a gennaio, produrremo in outsourcing e poi venderemo il cucibottone. Benissimo, tanti auguri. Guardi, grazie. Che adesso sta per arrivare una roba tremendamente diversa, se l'ascolti anche lei. Va bene, grazie. Grazie, buon lavoro e tanti auguri per il cucibottone. Grazie, arrivederci. Ascoltatori e ascoltatrici, segnatevi nella mente questo nome che magari forse avete già sentito, letto da qualche parte. Il nome è grafene. Può essere che, e anzi molto probabile, se la ricerca va avanti come sta andando avanti in questo settore, noi entreremo in quella che si potrà chiamare l'età del grafene, come c'è stata l'età del ferro. È qualcosa che effettivamente può cambiare in profondità veramente tante cose che ci circondano. Per parlare di questo grafene, ma in particolare di un'applicazione, di una ricerca che è nata intorno a questo materiale, ma la definizione materiale non è corretta, adesso vedremo, ho qui con me due ricercatori questa sera. Andrea Ferrari, buonasera Ferrari. Buonasera. E Vittorio Pellegrini, buonasera Pellegrini. Ferrari ci parla da Cambridge, Inghilterra però, no? E invece Pellegrini da dove? Dall'Istituto Nanoscienze e dalla Scuola Normale Superiore a Pisa. Esatto, l'Istituto Nanoscienze e l'Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Allora, siete tutti e due impegnati e avete ottenuto dei risultati interessanti, molto interessanti in questo campo. C'è anche in ballo, Pellegrini, come dire, un certo primato europeo, no? Nelle ricerche che riguardano questo settore. Ricordiamolo rapidamente. Sì, diciamo che l'Europa sta pensando di investire in maniera significativa sul grafene attraverso un progetto piuttosto grosso, di durata decennale, se verrà selezionato, lo sapremo veramente tra pochi mesi, riceverà un finanziamento di 1 miliardo di euro. Veramente e questo tanto. Servirà per creare una comunità europea che lavora sul grafene con la prospettiva di sviluppare una tecnologia che possa veramente nell'arco di 10 anni rivoluzionare molti aspetti della vita quotidiana dei cittadini. Va bene. Allora, vogliamo provare a dare un inquadramento, una definizione generale, spiegare un po' rapidamente che cos'è il grafene? Ma il grafene è un singolo strato di atomi di carbonio che si trovano in una configurazione esagonale ed è semplicemente un singolo strato di grafite e quindi si trova all'interno di tutte le matite e si trova all'interno della maggior parte dei composti a base di carbonio. È un materiale tanti. Che in realtà è da più di 100 anni che è conosciuto, ma è stato isolato e le ricerche sono iniziate in modo fondamentale dopo il 2004 con il lavoro di Novoselov e Gaim a Manchester nell'Inghilterra. Quindi è relativamente recente, però qual è, in che cosa consiste la sua potenza? Quante forme e in quanti modi può entrare nelle cose che ci circondano? Allora, Al momento, appunto, nel 2012 il grafene sembra un materiale ubiquo che può entrare quasi tutte le cose, dalle gomme delle automobili fino agli schermi dei computer o ai telefoni cellulari. È un materiale, ma è anche quello, noi ci riferiamo al grafene come una nuova piattaforma tecnologica, come può essere appunto il silicio o la plastica o qualcuno di questi materiali che entrano già nella vita di tutti i giorni. La sfida è appunto fare in modo che nei prossimi 5-10 anni questo materiale effettivamente entri nella vita quotidiana. Ma perché è per esempio trasparente e quindi può diventare un vetro di un'automobile, però allo stesso tempo è conduttore e quindi noi potremmo avere delle cose scritte, no? Per esempio su delle superfici trasparenti, siano esse finestre, siano esse cose appunto che abbiamo dei display su delle automobili oppure ovviamente monitor. Però allo stesso tempo questo grafene, le dicevo poco fa, si inserisce anche nelle gomme delle automobili, che è tutt'altro, no? Perché lì che differenza c'è tra queste funzioni? Beh, nel primo caso appunto un vetro è trasparente ma non conduce elettroni, corrente elettrica, mentre un metallo tipo il ferro sicuramente tutti sanno che conduce corrente elettrica ma non ci si può vedere attraverso. Queste due proprietà sono proprietà fondamentali quando si tratta di costruire schermi che interagiscono con l'utente, tipicamente attraverso il tatto. Sì. Questo tipo di dispositivi già esistono, tutti hanno i telefoni cellulari di ultima generazione, ma questi non sono flessibili, non sono trasparenti e sono basati su un materiale che è l'indio, che ha vari problemi di approvvigionamento, di costo e che comunque anche fosse disponibile a basso prezzo non permette appunto l'integrazione con il corpo umano o con vestiti e cose di questo genere. Perché le ricordavo, un oggetto trasparente ma però che posso praticamente arrotolare, no? E quindi ha certamente una possibilità di applicazione. Arrotolare, piegare e anche stirare senza anche che stirare. I legami si rompano. Invece il silicio, il tipico materiale dell'elettronica, al solo piegarlo si rompe immediatamente. Quindi questa è sicuramente una proprietà fondamentale. Però nelle gomme delle automobili? Collegato a questo c'è un'altra proprietà del grafene, che è il materiale più duro che esiste in natura, anche più del diamante, e quindi questo è allo stesso tempo è anche il materiale più lubricante che esista in natura. E quindi l'utilizzo all'interno dei compositi permette di cambiare le proprietà della gomma o della plastica, rendendole più durature col tempo o al tempo stesso controllando l'interazione tra la gomma e le superfici. Vittorio Peregrini, arrivo a lei allora. Nella vostra particolare ricerca entrano in campo delle frequenze altissime, terahertz, si parla di questo, che abbinate al grafene possono dare delle grandissime possibilità applicative nel campo della sicurezza. Proviamo a entrare dentro questo aspetto. Diciamo innanzitutto dobbiamo capire che cosa sono i raggi terahertz, la radiazione terahertz è una radiazione non visibile, quindi non si vede ad occhio nudo, vicina come frequenze alle microonde, per parlare di qualcosa di cui facciamo esperienza quotidiana, ed ha la caratteristica, una caratteristica molto importante, che la radiazione può attraversare una serie di tessuti o materiali come i vestiti, la carta, la plastica, la ceramica, però allo stesso tempo è bloccata da altri materiali come per esempio i metalli o l'acqua. Allora questa è una caratteristica molto importante, perché per esempio se pensiamo subito a mettere un pezzo di metallo all'interno di una borsa, ecco, la radiazione terahertz è proprio una radiazione che permette di attraversare la borsa e vedere la presenza di questo metallo. Con molta più efficienza di quanto facciamo adesso. Con molta più efficienza di quanto facciamo adesso, e inoltre c'è da dire che è una radiazione soffice, nel senso che non è pericolosa, al contrario per esempio dei raggi X, sono radiazioni molto più energetiche, quindi sappiamo che ad alte dosi possono produrre quello che noi tecnicamente diciamo ionizzazione, quindi sono radiazioni ionizzanti, possono alterare il tessuto per esempio cellulare, certo, ad alte dosi. La radiazione terahertz invece è morbida, è soffice, quindi bassa energia, non produce questi effetti, quindi è innocua, e questo è un altro vantaggio della radiazione terahertz. Quindi si può capire che la radiazione terahertz porta dei vantaggi tecnologici non indifferenti, abbiamo appena accennato quello di poter identificare oggetti all'interno di borse o vestiti. Certo, come questo si combina con il grafene? Una dei colli di bottiglia di una possibile tecnologia basata sui terres è appunto la rivelazione, cioè come facciamo a rilevare questa radiazione? Dobbiamo costruire dei sensori, degli oggetti concreti che possano dirci se è presente o meno la radiazione terres, e qui appunto viene il grafene, perché come detto dal mio collega Andrea Ferrari, il grafene interagisce in maniera molto sorprendente, molto più efficiente rispetto ad altri materiali con la radiazione di qualsiasi lunghezza d'onda e quindi anche di quella terres. Questo, unito alle ottime proprietà di conduzione elettrica, permette un effetto che sta alla base della rivelazione, cioè la radiazione terres è capace di mettere in movimento in modo molto efficace gli elettroni all'interno di questo foglio bidimensionale e produrre una corrente elettrica, che è il segnale che io posso utilizzare per rilevare la radiazione. Ecco, questo noi abbiamo fatto, abbiamo costruito un sensore basato sul grafene che appunto in presenza di radiazione terres dà origine a una corrente elettrica che può essere misurata a temperatura ambiente con una risposta che è molto veloce, perché quando uno vuole utilizzare un sensore per fare un'immagine, una radiografia terrestre, vuole farlo velocemente, non vuole aspettare un'ora per avere un'informazione e fare una, tra virgolette, radiografia in questa regione spettrale. Quindi abbiamo la combinata tra una frequenza particolarmente efficiente e un materiale altrettanto particolarmente efficiente per riuscire a utilizzarla. Questo, diciamo, c'è l'aspetto più... Con tutti i vantaggi che appunto abbiamo detto, che è flessibile, robusto, economico, eccetera. Andrea Ferrari, Vittorio Peregrini, grazie, buon lavoro, buona ricerca, e abbiamo fatto un piccolo passo però verso l'età del grafene. Grazie e buona ricerca. Grazie, buonasera. Qual è il rapporto fra la matematica e la fisica? È come domandarsi quale sia il rapporto fra il pomodoro e gli spaghetti, quando si parla di spaghetti al pomodoro. Cos'è più importante, gli spaghetti, il pomodoro? La matematica che usiamo nella ricerca da 400 anni è nata con la fisica, e la fisica nuova che si fa in continuazione spesso parte da intuizioni o modelli matematici. Una coppia indissolubile che una nuova collana del Sole 24 Ore vi racconta a partire dal 16 novembre, venerdì prossimo, in edicola con 12 volumi. Un primo titolo, La luce è un'onda elettromagnetica, è un esempio tipico di quello che vi sto dicendo. Per secoli si è lavorato con specchi e lenti nei quali effettivamente la luce come fenomeno fisico si manifestava, ma era come se la fisica fosse muta. Poi finalmente arriva la matematica, che è la sua voce. La matematica è il linguaggio della fisica. Solo che cosa facciamo noi umani con il linguaggio? Facciamo un sacco di cose utilissime per la quotidianità, ma raccontiamo anche storie inventate, irreali, di pura fantasia. Anche la matematica inventa mondi fantastici. Ma nella storia, ad un certo punto, accade che queste invenzioni, che sembrano astratte, funzionano per descrivere fenomeni fisici. E questo è proprio un grande sortilegio. Questa collana, 12 volumi, a partire dal 16 novembre, insieme al Sole 24 Ore, la trovate ogni venerdì in edicola. Siamo tornati al traffico per vedere se qualcosa sulle strade è cambiato. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. C'è forse qualcuno che può dubitare del fatto che quegli, ecco vedete, stavo per dire animali a quattro zampe, ma appunto sono animali per noi? Se siamo particolarmente compresi da una cultura evoluzionista, allora sì, siamo noi animali e quindi anche loro, ma in generale, diciamocelo, sono persone un po' pelose, ma noi li viviamo come carissime amiche e amici che quando si ammalano noi andiamo in crisi. Möbius, da questa puntata, vi vuole raccontare alcune storie di malattie insolite che non possono che stupirci. Perché sono strane? No. E qui sta il punto. Seguite Chiara Albicocco e capirete cosa intendo. L'inizio del racconto è molto simile a un servizio su temi di veterinaria, ma poi arriva la storia di Teo. La clinica degli animali. Si chiama Teo, è un pastore maremmano di 11 anni ed è questa la storia che vogliamo raccontarvi. Mi trovo qui in compagnia con il medico veterinario Roberto Bustadori e insieme a lui vogliamo raccontarvi la storia di questo cane che si è presentato qui in clinica una settimana fa e riportava quale tipo di patologia. Dunque, il proprietario è venuto presso il nostro centro perché il cane aveva avuto degli episodi di dispnea ostruttiva nei quali il proprietario proprio ha detto sembrava che stesse soffocando. Questa dispnea ostruttiva era molto evidente anche alla visita clinica e si presentava con uno stridore inspiratorio. Mi spiego meglio, lo stridore inspiratorio è un tipo di rumore molto acuto che avviene durante l'inspirazione. Quindi il cane faticava a respirare, insomma, era questo che il padrone, che chiameremo Marco così per la privacy, aveva notato. Sì, il cane aveva difficoltà respiratorie, soprattutto sotto sforzo. Il sotto sforzo e in questo caso è particolare perché il cane segue sempre il proprietario nelle sue escursioni e il proprietario è un alpinista. Dunque, sia la razza che il tipo di respiro, la razza è, abbiamo detto, un pastore maremmano di 10-11 anni circa, 10 anni e mezzo, lasciavano pensare ad una patologia ostruttiva che poi è la paralisi laringea. La paralisi laringea rientra in quel capitolo delle dispnee ostruttive. Dunque, si manifesta per un deficit di abduzione, cioè di apertura delle cartilagini aretenoidee durante l'inspirazione. Le cartilagini aretenoidee sono quelle cartilagini a cui sono attaccate le corde vocali, che dovrebbero aprirsi durante l'inspirazione e chiudersi durante l'espirazione. Se questo non avviene, c'è un'ostruzione e l'aria non può passare nelle vie basse respiratorie, cioè verso trachea, bronchi e polmoni. E quindi da qui deriva la difficoltà respiratoria. Ecco, e da qui deriva anche il caso di Teo e la cura che purtroppo certe volte porta anche alla perdita della voce, e possiamo pensare che per un cane la perdita della voce significhi soltanto il non abbaiare più, invece raccontiamo la storia di Teo perché non è così. Ecco, allora, dopo aver effettuato in sedazione, quindi in leggera anestesia, una laringoscopia, abbiamo verificato che si trattava proprio di una paralisi laringea bilaterale, quindi tutte e due le cartilagini aretenoidee e quindi le corde vocali rimanevano immobili durante l'inspirazione. Sono uscito dalla sala in cui ho effettuato la laringoscopia e ho parlato con il proprietario per comunicargli quanto avevo visto e gli ho comunicato che avrei dovuto effettuare un intervento, ma che in seguito a questo intervento il cane avrebbe potuto rimanere afono, cioè avrebbe potuto perdere la voce. A questa notizia il proprietario ha reagito in una maniera piuttosto strana e scoppiato in lacrime. Su questo, insomma, immagino che dal suo punto di vista c'è una duplice, come dire, difficoltà. Dal punto di vista personale, ovviamente, la reazione del proprietario così forte, e dal punto di vista invece medico, il suo rigore medico, per cui a un certo punto ha dovuto fare una scelta. Perché il proprietario ha reagito in questo modo? Ma guardi, ero piuttosto perplesso anch'io da questa reazione. Guardi, il proprietario ha reagito in questo modo e mi ha spiegato perché. Allora, il proprietario, abbiamo detto prima, è un alpinista e il cane lo segue spesso nelle sue escursioni. Durante un'escursione, circa un paio d'anni fa, il proprietario è stato colpito da una frana ed è stato colpito alla testa, ha perso i sensi e poi è rimasto bloccato da questa frana a chilometri dalla sua abitazione. Il cane è ritornato, mi diceva il proprietario, in paese ed è andato dagli amici di questo proprietario e ha continuato ad abbaiare finché gli amici si sono resi conto che era Teo, il cane di Marco, e si sono detti: ma Teo ci sta cercando di dirci qualcosa, di comunicarci qualcosa. E il cane faceva capire a questi signori che voleva essere seguito. Lo hanno seguito per chilometri e di notte sono arrivati sul punto dove c'era stata questa frana e dove il proprietario era bloccato e ferito a causa dei massi che l'hanno colpito. Quindi abbaiare per questo cane ha significato molto, ma ha significato molto per il proprietario ovviamente. La perdita della voce quindi non era accettata come poteva essere accettata da altri proprietari. Noi consideriamo spesso la voce di un animale poco importante perché non devono parlare. In questo caso per il proprietario era davvero importante. Abbiamo effettuato una terapia medica, è passata circa una settimana. Ho sentito proprio oggi il proprietario che mi ha detto che purtroppo la sintomatologia persiste. Credo quindi che dovremo effettuare l'intervento chirurgico. Ecco, quindi in questo caso il medico, insomma, prevarica per forza la persona e quindi decide per il bene del cane, che non è il bene del padrone, e purtroppo rende in qualche modo il cane meno comunicativo, purtroppo. Beh, certo, questo è indubbio. ma noi per forza la nostra missione è quella di curare gli animali e in questo caso è vero che nel suo caso la voce è stato un fattore molto importante, ma respirare è di primaria importanza, respirare vuol dire vivere e quindi noi dobbiamo eseguire l'intervento per far tornare Teo ad una respirazione normale. Questo tipo di patologie che abbiamo riscontrato in Teo, che è un pastore maremmano, l'abbiamo detto, è riscontrabile anche in altre razze, quindi in altri cani, ma anche in gatti o animali domestici di questo tipo? Beh sì, una domanda molto interessante. Infatti c'è una predisposizione di razza. Dunque, la parasi laringea colpisce soprattutto setter, labrador e golden retriever, anche pastori maremmani. Una patologia che può essere anche congenita in alcune razze, come il pastore della Brie, per esempio, o il bull terrier, ma solitamente è una patologia acquisita ed insorge per una degenerazione del nervo laringeo ricorrente. Intorno ad un'età media che è compresa tra gli 8 e gli 11 anni di età. In questa età è proprio compreso anche Teo, anche la razza è una razza che ha particolare predisposizione per questa patologia. I gatti, mi chiedeva, i gatti sono colpiti in un rapporto assolutamente inferiore rispetto ai cani, è una patologia più tipica dei cani. I gatti sono colpiti, ma io nella mia carriera ho operato due gatti con questa patologia. Una patologia invece che si riscontra frequentemente nei cavalli. E dottore, sempre in queste patologie l'animale rischia sempre di perdere la voce? Allora, innanzitutto la terapia non è ad un unico senso. La paralisi laringea può essere bilaterale o monolaterale. È bilaterale quando vengono colpite tutte e due le cartilagini tenoidee, ovviamente. Nei casi in cui, per esempio, la paralisi laringea si manifesta in maniera monolaterale, con una sola cartilagine laringea colpita, ma l'altra mantiene una mobilità, non è necessario solitamente l'intervento chirurgico. Si ha soltanto un'alterazione della voce, ma la respirazione è mantenuta. Diventa necessario l'intervento quando la paralisi laringea è bilaterale, soprattutto in quei soggetti che hanno ancora un'attività atletica piuttosto importante. Con i soggetti in cui la vita è assolutamente sedentaria si può anche soprassedere da una terapia medica che sostanzialmente è a base di cortisone o comunque di antinfiammatori. Nei soggetti in cui la paralisi laringea è bilaterale e hanno necessità di avere una respirazione normale si può eseguire una serie di interventi. Quello più diffuso in assoluto è quello che proporrò per Teo ed è la lateralizzazione della cartilagine retinoidea, cioè questa cartilagine a cui è attaccata la corda vocale viene spostata di lato in modo che sia più aperto quello spazio che si chiama rima glottis che fa passare l'aria per andare all'albero respiratorio inferiore. Ed è l'intervento, dicevamo, più eseguito. Poi ci sono ultimamente altre proposte, per esempio terapie con il laser, terapie chirurgiche con il laser, che anche queste hanno un'ottima valenza. Ma quello sicuramente più eseguito, ripeto, è la lateralizzazione della cartilagine retinoidea, con ottimo successo. Dottore, la paralisi laringea per gli animali è una malattia non molto diffusa, però abbiamo visto il caso di Teo, che è un caso concreto. Per gli esseri umani, invece, esiste questa patologia? Sì, esiste anche per l'uomo, con alcuni trattamenti che sono simili a quelli veterinari. Ovviamente viene posto maggior rilievo all'importanza della voce. Va bene, grazie dottore, con lei ci risentiamo nelle prossime settimane per raccontare appunto altre storie interessanti come questa di cani, gatti e non solo. Per raccontarvi queste storie siamo andati alla clinica veterinaria Gran Sasso a Milano. E adesso con Alberto Gliotti vi dobbiamo parlare di scimmie che imitano noi umani. Guardate un po' dove siamo arrivati. Parliamo di scimmie e di scimmie che imparano dall'uomo e lo facciamo con un ricercatore, un neurofisiologo dell'Università La Sapienza di Roma, Aldo Genovesio. Buonasera. Buonasera. Allora, voi avete fatto uno studio, avete pubblicato un articolo recentemente sulla rivista PLOS ONE che dimostra per la prima volta, insomma, che le scimmie possono imparare dei comportamenti osservando non quello che fanno altre scimmie, ma quello che fa un essere umano. È così? Sì, ce lo spieghi un po'? Esatto. Diciamo che l'apprendimento per osservazione è un apprendimento generale e non è solo delle scimmie, coinvolge tante specie, è stato dimostrato anche in pesci e in rettili, quindi non solo mammiferi ma anche rettili e pesci. Il nostro contributo allo studio dell'apprendimento per osservazione è l'apprendimento per osservazione da non conspecifici che abbiamo dimostrato nella scimmia. scimmia. Cioè i pesci imparano da altri pesci, in generale gli animali imparano dai loro simili, ma in questo caso è una scimmia che impara da un uomo, quindi c'è un salto di specie. Insomma. Fino ad oggi i risultati che erano stati ottenuti negavano questa possibilità, ed è per questo che il nostro esperimento ha una certa importanza. Quello che abbiamo introdotto di nuovo rispetto ai paradigmi sperimentali utilizzati precedentemente è quello che viene chiamato rinforzo vicariante, cioè il modello umano che mostra un comportamento non lo mostra soltanto, ma viene rinforzato, cioè ottiene un premio lui stesso che la scimmia può vedere, e questo dovrebbe facilitare l'apprendimento della scimmia che osserva l'agente umano eseguire un comportamento. Quindi l'uomo compie un gesto, viene premiato per il gesto e la scimmia capisce che quello è un premio e allora può ripetere lo stesso esatto. Gesto. Però nel nostro caso non è tanto un gesto quanto un'associazione tra un oggetto e un rinforzo, che è un pezzo di mela. Ecco, ma allora ci racconti un po' il dettaglio dell'esperimento, cos'è che avete fatto? Sì, la scimmia osserva un agente umano operare su due contenitori, che uno dei quali contiene del cibo e l'altro no. Questi sono due contenitori di forma diversa, di colore diverso. Quando l'agente umano si avvicina al contenitore contenente il cibo, lo solleva, raccoglie il cibo sottostante e lo mangia. Questa è la fase di osservazione in cui la scimmia osserva varie volte l'agente umano alzare lo stesso contenitore e mangiare il cibo da questo contenitore. Poi in una fase di test testiamo la scimmia con gli stessi oggetti per testare quale dei due oggetti la scimmia sceglierà. Cioè li fate vedere gli stessi contenitori che prima manovrava l'agente umano, che fa l'uomo, insomma. Sono presentati a una distanza tale che la scimmia possa raggiungerli, mm-hmm, e sollevarne uno dei due. Già nel primo trial noi otteniamo una percentuale di successo pari al 70%, quindi le scimmie sono in grado di discriminare con una probabilità di successo superiore al caso, si dice, quale dei due contenitori contenga il cibo. E dicevamo è la prima volta che si dimostra questa cosa, perché prima gli altri esperimenti cosa mostravano invece? Gli altri esperimenti hanno dimostrato diverse volte che le scimmie possono imparare da altre scimmie, mm-hmm, gli analoghi se non più difficili, però hanno fallito nel mostrare che le scimmie potevano imparare un task del genere senza che la scimmia osservasse l'agente umano mangiare la mela. Ma quindi cosa succedeva? Cioè la scimmia la vedeva la mela, solo che non vedendo qualcuno che la mangiava non si interessava? Esatto. Il nostro è il primo risultato positivo che mostra che non è fondamentale questo tipo di capacità identificativa tra conspecifici, ma anche nel caso in cui non ci sia un conspecifico davanti, la scimmia può imparare. Insomma, c'è sempre da imparare anche dagli altri, ecco. C'è sempre da imparare. Le scimmie ci guardano, ci osservano e possono imparare anche da noi. Va bene, Aldo Genovesio, la ringraziamo. Lei non era solo in questo studio, in questa ricerca. Sì, vorrei ringraziare i miei collaboratori, che sono Rossella Falcone e Emiliano Brunamonte, che hanno collaborato a questo studio insieme a me. Mebius si chiude qui. So che molti di voi avranno le lacrime agli occhi ancora per la storia di Teo, e vi avviso che la prossima settimana ne avremo un'altra di queste strane avventure dei nostri amici animali. Ci sentiamo fra 7 giorni.